Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Istat crolla la spesa delle famiglie meno 6% nel primo trimestre, sale invece il risparmio degli italiani. Tensione sul taglio delle vitalizi, Casellati, la presidenza del Senato non c'entra, il Movimento 5 Stelle accusa Forza Italia e per la Meloni è colpa del PD. Ancora tensione a Mondragone, proteste contro la zona rossa e scontri tra italiani e bulgari, incendiato un furgoncino. Ponte di Genova, i parenti delle vittime avvertono, non parteciperemo all'inaugurazione. Buongiorno Alessio Maurizi dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Avete sentito dai titoli, l'Istat evidenzia con dati ancora una volta rivolti al passato quanto è stato profondo il crollo dei consumi durante l'emergenza coronavirus. Mentre oggi sul fronte scuola è una giornata nella quale si dovrebbe decidere la conferenza Stato-Regioni su almeno la data d'inizio, ma anche sulle regole per la ripartenza a settembre, il ministro dell'Economia Gualtieri ha garantito tutte le risorse necessarie per far ripartire le lezioni in sicurezza. Ma partiamo invece dalla cronaca di Mondragone, nell'area dei palazzi ex Cirio, che da lunedì è zona rossa a causa di una cinquantina di contagi. Tensioni questa notte, scontri tra italiani e bulgari, un furgoncino è stato dato alle fiamme. E le autorità dove sta? Il sindaco dove sta? Almeno sono 10 anni che teniamo questa situazione. Proteste e urla, nella notte è stato dato alle fiamme anche un furgoncino di un residente bulgaro, incendio doloso secondo la polizia. A Mondragone in Campania l'emergenza sanitaria è ora emergenza sociale di ordine pubblico. Nell'ex Cirio, 5 palazzi sovraffollati e degradati, dove convivono italiani e bulgari, 49 persone sono state trovate positive al coronavirus. Alcuni di loro, tutti bulgari, sono spariti poi nel nulla. Da qui la rabbia dei residenti che dal lunedì scorso vivono segregati nella zona rossa dove sono stati fatti 730 tamponi. Ieri gli italiani hanno protestato urlando contro le autorità e lanciando sedie dai balconi. Oggi manifestazione intorno ai 5 palazzi in municipio. Matteo Mauri, vice ministro dell'Interno. Quello che è successo a Mondragone è inaccettabile perché il rispetto delle regole deve valere sempre. In realtà il coronavirus ha fatto solo emergere una situazione difficile che esiste da anni sotto gli occhi di tutti. Quasi un migliaio di braccianti bulgari arruolati ogni mattina dai caporali. Raccolgono pomodori, fagiolini, albicocche. La paga è addirittura più bassa che a Rosarno. 3 euro l'ora per gli uomini, la metà per le donne, 75 centesimi per i minori. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oltre alla situazione di evidente degrado nell'area del Casertano, in generale sono in leggero aumento i dati italiani del contagio. Un nuovo focolaio si è acceso anche nel polo logistico di Bologna. Attesi e inevitabili, così Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, riguardo ai nuovi focolai di coronavirus in Italia. La sfida è quella di isolarli e spegnerli in fretta. In questo senso avrebbe avuto grande valore comunicare sintomi ai medici di base, dicono dall'ASLA di Bologna, commentando il fatto che molti dipendenti della Bartolini, dopo qualche giorno di febbre, sarebbero tornati al lavoro senza verifiche. Il focolaio all'interno della ditta che spedisce in tutto il mondo conta ora 64 positivi, 2 ricoverati e tampone per circa 370 persone. Secondo il direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'ASL di Bologna, le regole in magazzino non venivano rispettate in modo sistematico. Situazione difficile anche in Campania, dove non accennano a diminuire i nuovi casi di positività al coronavirus, trascinati dal focolaio di Mondragone nel Casertano, vicende che influiscono sui dati giornalieri della pandemia in Italia. Il primo report parla di 296 nuovi casi in aumento rispetto agli ultimi giorni, a fronte di una crescita dei tamponi di oltre 56.000. Pesa anche il raddoppio della Lombardia, che passa da 88 a 170 nuovi infetti. I decessi sono 34, anch'essi in aumento rispetto a mercoledì, quando erano 30. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cambiamo argomento e parliamo della decisione della Commissione del Senato, Commissione contenziosa che si occupa appunto di dirimere i contenziosi all'interno del Senato, ha annullato, come forse saprete, la delibera sulla abolizione dei vitalizi. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si dicono totalmente contrari a questa decisione. Anche la Lega annuncia di volersi impegnare per ribaltare il voto, mentre la Presidente del Senato, Casellati, dice la Presidenza del Senato non c'entra niente. Neppure Forza Italia difende la delibera votata ieri sera dalla commissione contenziosa del Senato che ha ripristinato i vitalizi per 300 ex senatori. Il taglio votato nel 2018 era in media del 60% dell'assegno, come spiega l'ex deputato di Forza Italia Maurizio Paniz, che ha promosso il ricorso degli ex. La commissione contenziosa è un organo indipendente formato da 3 senatori e 2 tecnici esterni. A favore del ricorso hanno votato il presidente Giacomo Caliendo di Forza Italia e 2 tecnici, contrari 2 senatori leghisti. Contro il ripristino dei vitalizi hanno tuonato ieri sera i 5 Stelle, uno schiaffo al paese, dice Vito Crimi, seguiti però anche dal PD, scelta sbagliata secondo Zingaretti, e poi da Lega e Fratelli d'Italia. La decisione definitiva spetta ora al Consiglio di Garanzia, un altro organo indipendente composto però tutto da senatori e dove ci sono i numeri per ribaltare il verdetto. Oltre al presidente, sempre di Forza Italia, 2 senatori sono della Lega, uno di Fratelli d'Italia, uno del PD. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nel primo trimestre dell'anno la spesa per i consumi finali delle famiglie, e siamo ai dati dell'Istat, si è ridotta dello 6,4%, rileva proprio l'Istituto di Statistica, che evidenzia come nello stesso periodo si registri invece un aumento considerevole del tasso di risparmio, salito al 12,5%, in rialzo di oltre 4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Probabilmente abbiamo superato il punto più basso della crisi, lo dico con un po' di trepidazione. Così la presidente della BCE, Christine Lagarde, a proposito della crisi economica causata dal Covid. Lagarde ha aggiunto tuttavia che alcuni settori, come le industrie aeree, le industrie dell'ospitalità e quelle dell'intrattenimento, usciranno da questo processo di recupero in modo diverso e alcuni di loro saranno, ha detto Lagarde, probabilmente irrimediabilmente feriti. E sono quasi 40.000 i nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore, decine di migliaia di casi anche in India, mentre il presidente del Brasile Bolsonaro ha fatto sapere che potrebbe aver contratto lui stesso il coronavirus. Continuano ad aumentare i numeri della pandemia da coronavirus nel mondo. I contagi a livello globale sono oltre 9,6 milioni. I morti invece sono più di 489 mila. Balzo di numeri soprattutto nelle Americhe. Negli Stati Uniti sono ormai più di 2 milioni e 400 mila i casi e oltre 124 mila le vittime. Il nuovo record di contagi, quasi 40 mila nelle ultime 24 ore, soprattutto negli stati dell'Ovest e del Sud, ha convinto la task force anti-Covid guidata dal vicepresidente Pence a tornare in pubblico per la prima volta dopo 2 mesi. Nessuna attenuazione in America Latina, in particolare in Brasile, il paese con più malati, secondo dietro agli Stati Uniti, con oltre 1.200.000 casi e quasi 55.000 morti. Il presidente Bolsonaro ha detto che lui stesso potrebbe aver contratto il coronavirus e forse dovrà fare un altro test. Ma anche in altri paesi si teme una nuova ondata di contagi, come in Australia, che ha registrato vari focolai nello stato di Victoria, o in Cina, dove di recente si è registrato un focolaio a Pechino, mentre in Messico sono oltre 6.000 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, superando così la soglia di oltre 200.000 casi e 25.000 decessi. Intanto l'OMS avverte c'è una recrudescenza di Covid-19 anche in Europa e lancia l'allarme per la carenza di ossigeno negli ospedali. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con la cronaca ritorniamo in Italia. Dopo Massimo Carminati, tornano liberi per decorrenza dei termini di custodia cautelare anche Salvatore Buzzi e Luca Gramazio, 2 imputati eccellenti del procedimento Mondo di Mezzo. Lo ha disposto la Corte d'Appello di Roma, che ha disposto per il RAS delle cooperative l'obbligo di dimora nel territorio capitolino. I 2 si trovavano già agli arresti domiciliari. E 18 arresti per assenteismo sono stati effettuati invece in Sicilia al comune di Piazza Armerina. Risultavano presenti in ufficio e invece andavano al mercato settimanale per fare la spesa. Ogni giovedì, puntualmente, un gruppo di impiegati del comune di Piazza Armerina trovava il modo per uscire dall'ufficio risultando presente. Lo hanno scoperto i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Enna. Per 18 tra impiegati addetti dei cantieri di servizio, le accuse, al termine dell'indagine coordinata dalla procura di Enna guidata da Massimo Palmeri, sono di truffa aggravata, peculato, irregolare attestazione delle prestazioni prestazioni lavorative. Il provvedimento emesso dal GIP e notificato dalla Guardia di Finanza dispone la sospensione dei pubblici uffici per 6 mesi per 13 persone e l'obbligo di firma per le altre. Denunciate alla fine in tutto 69 persone, 54 dipendenti del comune di Piazza Armerina su 164 che lavorano per l'ente e 14 impiegati nei cantieri di servizi. Nina Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Enna. Scuola, la conferenza Stato-Regioni che deve esaminare il piano del MIUR per la ripartenza a settembre è slittata oggi pomeriggio alle 14.30. Ieri il presidente dell'Emilia-Romagna e della conferenza aveva Stefano Bonaccini aveva definito il piano irricevibile, mentre oggi il ministro dell'economia Gualtieri ha detto che il governo è disposto a fare tutto ciò che serve per la ripresa in sicurezza delle elezioni. A Genova adesso i familiari delle vittime del Ponte Morandi fanno sapere che non parteciperanno alla cerimonia di inaugurazione del nuovo viadotto. Per la cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte di Genova non c'è ancora una data ufficiale, forse sarà il 1° agosto, e neppure un programma definito, ma di certo c'è che quel giorno i parenti delle 43 vittime non parteciperanno alla manifestazione. La decisione è stata assunta ieri sera nel corso dell'assemblea del comitato e comunicata stamane prima a sindaco e prefetto e poi con una nota ai media. Una posizione maturata dopo settimane di annunci e smentite sulle modalità della manifestazione. In un primo tempo si era parlato di un vero e proprio show in diretta TV da Genova, prospettiva che aveva suscitato polemiche eppure un richiamo alla sobrietà e all'unitarietà da parte del Presidente della Repubblica Mattarella. Egle Possetti è la Presidente del Comitato delle Vittime del Ponte. È emersa in modo forte la necessità di non essere lì quel giorno, perché essere lì quel giorno per noi su quel ponte e aveva un significato troppo forte. Noi non lo sentiamo come nostro questo ponte. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:12, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con Effetto Giorno e tutte le altre notizie. Torneranno a essere pagati i vitalizi? E poi ancora il nuovo focolaio di Bologna, le autorità sanitarie fanno sapere che è dovuto al mancato rispetto del distanziamento e l'uso delle mascherine sul luogo di lavoro. Quindi attenzione massima. 349-238-6666, a tra poco. Spesso i buoni affari hanno bisogno di decisioni rapide e di informazioni utili in tempo reale. Scarica l'app di Credit Reform e puoi leggere subito e ovunque tutte le informazioni sulle aziende europee che ti interessa conoscere meglio. Credit Reform App, semplice, rapida, conveniente, da smartphone e tablet. Credit Reform, primo in Europa per le informazioni commerciali. 800 42 53 25 o creditreform.it. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Rientro a scuola, si decide su mascherine e data di partenza. Istat, crolla la spesa delle famiglie, meno 6% nel primo trimestre, sale invece il risparmio degli italiani. Tensione sul taglio dei vitalizi, Casellati, la presidenza del Senato non c'entra, il Movimento 5 Stelle accusa Forza Italia. Ponte di Genova, i parenti delle vittime non parteciperemo all'inaugurazione. Nuovo focolaio a Bologna tra i lavoratori della logistica, in pochi usano le mascherine, dice la ASL, ne parliamo tra poco. Dunque, cari ascoltatori, eccoci qua in diretta e come avete sentito dai titoli ci occupiamo subito del nuovo caso, nuovo focolaio di casi di coronavirus a Bologna. Lo facciamo con Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica della ASL di Bologna, benvenuto. Buongiorno a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito, Pandolfi. Allora, questo focolaio si tratta soprattutto di una serie di lavoratori, alcuni loro familiari, insomma vicini, di un polo logistico, in particolare c'è un'azienda al centro, ma ci sono anche altri casi che sarebbero collaterali. L'azienda è la Bartolini, che ha fatto sapere di essersi attivata velocemente per fare i tamponi, oltre 200 tamponi, far fare oltre 200 tamponi, mettere in isolamento i lavoratori. Io la prima cosa che le chiedo, Pandolfi, è di che entità è questo focolaio e come è stato scoperto? Il focolaio è di alcune decine di persone, in parte, in gran parte sono dei dipendenti che hanno e che lavorano nell'ambito delle attività di stoccaggio e magazzino, quindi sono tutti magazzinieri fondamentalmente, e una quota di circa, sono 17 persone che sono invece dei familiari o dei conoscenti, comunque rapporti amicali. Come è stato scoperto? È stato scoperto attraverso appunto indicazione anche di un medico, di una persona che risultava con della sintomatologia, e da lì poi è partito il tutto. Noi abbiamo fatto il nostro intervento molto rapido, abbiamo cercato di individuare i casi e quindi poi di isolarli. Gran parte di queste persone, la stragrande maggioranza, è in effetti asintomatica, cioè quindi persone che sono state individuate molto presto, precocemente, senza che avessero manifestato i sintomi. Però ci sono anche un paio di persone ricoverate, giusto? Sì, due persone sono ricoverate, uno tra i dipendenti, uno tra i familiari. Quindi un po' anche, visto che sono alcune decine di casi, un po' in linea anche con le percentuali che siamo abituati a conoscere, dove ci sono numero maggioritario di casi asintomatici, però c'è sempre qualcuno che poi necessita di un ricovero ospedaliero. Io le voglio chiedere, Pandolfi, quale può essere stata l'origine, no, anche di questi casi, perché fino ad oggi, in questa, diciamo, dal 4 maggio in poi, le riaperture, insomma, da quando i casi sono calati molto, i nuovi casi erano, c'era stato detto, legati a code dell'epidemia di aprile, quindi persone ricoverate nel RSA, personale sanitario, chi faceva magari il test scopriva di essere positivo per vari motivi, ma è familiari di pazienti. In questo caso, quale può essere l'origine di questi nuovi? L'origine è semplicemente il fatto che il virus circola, non è che non ci sia più. Quindi le code hanno un valore relativo, le code sono qualche cosa che ha una storia sua, ma che non vuol dire che se c'è una coda non c'è il virus che circola. In questo caso il virus sta circolando, circola in modo meno importante rispetto a quello che è stato a febbraio, meglio ancora marzo e aprile, ma sta circolando, siamo in una fase di endemia e quindi questo vuol dire che il virus non è scomparso e che colpisce soprattutto le persone che hanno maggiori relazioni, rapporti, che vivono in ambienti anche di vita un po' meno promiscui e che non adottano in modo adeguato alcune semplici pratiche di abitudini quotidiane di igiene personale. Ecco, voi questo mi sembra che l'avete sottolineato, a proposito proprio anche, non so se avete fatto le ispezioni, se avete diciamo intervistato le persone, è emerso che queste misure di sicurezza, mascherine e distanze sul luogo di lavoro erano poco rispettate. Diciamo che non erano poco rispettate, che non c'era una completa adesione a questi tipi di situazioni, insomma, comunque comportamenti. In realtà c'era una mancanza relativa in alcuni casi di appunto utilizzo adeguato di mascherine, del rispetto della distanza e della pulizia, soprattutto della pulizia delle mani. Ma questo non era un elemento diffuso, era appunto parziale, ma questo vuol dire che in quel caso anche parzialmente, se c'è qualcuno che non rispetta le regole, poi è quello che per vari motivi può essere poi il contagiante, quindi poi colpisce un po' tutto. Ma perché la logistica, si tratta di un lavoro che si svolge anche molto diciamo individualmente, con persone alla guida che magari hanno sì contatti con altre persone, ma contatti sporadici, molto all'aria aperta, invece nei magazzini forse. Appunto, non ha colpito fino a questo momento, non abbiamo nessun caso tra gli autisti e i corrieri cosiddetti, mentre invece li abbiamo nei luoghi dove si concentrano persone perché fanno attività di facchinaggio, i magazzinieri, di magazzino, e quindi sono persone che hanno una necessità di lavorare anche insieme perché devono smaltire una serie di attività, però sono molto confinati. La situazione di questo tipo di focolaio è che è proprio confinato ad un certo tipo di struttura. Il lavoro poi che è stato fatto con la Bartolini è anche però allargarsi, quindi adesso abbiamo fatto molti tamponi anche al personale amministrativo e al personale che invece è corriere e fa l'autista. Ecco, un'ultima cosa, Pandolfi, a proposito dei tamponi, lei ritiene in questa fase sufficiente il monitoraggio che si sta facendo nel suo territorio? Credo che possa rispondere per quello, non in generale, o anche se ha un'idea, diciamo, nella sua regione in generale, si sta testando abbastanza o no? La regione Emilia-Romagna è una regione che ha investito moltissimo sull'azione di tamponi ed è una delle regioni che produce più tamponi in Italia in termini di proprio di esecuzione. Ci tiene molto e lo sta facendo in modo costante in tutti i territori. Lo fa anche in modo molto capillare, soprattutto quando c'è una necessità specifica di rischio. Ma le dico solo questo, noi stiamo testando in modo sistematico e ripetuto tutte le persone che sono presenti, per esempio nelle CRA, e come ospiti, quindi le strutture residenziali per anziani, sia come ospiti che come operatori, e questo vuol dire che c'è un'attenzione particolare su settori di fragilità. Poi ovviamente lo facciamo nei punti più critici dove sappiamo, dove emergono alcuni casi, quindi lavoriamo molto con molta attenzione e molto in modo sistematico quando c'è la necessità. Noi produciamo in media come azienda 1200-1300 tamponi al giorno. Grazie Paolo Pandolfi, grazie per essere stato con noi. Prego, buongiorno, arrivederci. Il direttore della AUSL di Bologna che ci ha raccontato, avete sentito, quali sono, diciamo, i contorni di questo nuovo focolaio tra i lavoratori nel settore della logistica a Bologna, e molto localizzato tra chi lavora al chiuso, stando molte ore a contatto, magari molto vicini, e dimenticandosi di utilizzare le precauzioni, le mascherine, il distanziamento. Ricordiamoci di farlo sempre, e pretendiamo anche nei luoghi di lavoro, dove magari qualche volta c'è un po' di distrazione, di pretendere che questo avvenga. A proposito di lavoro, facciamo un salto in Europa. Emergenza lavoro in chiave europea è a questo dedicato reportage, l'Euroreportage di domani mattina alle 8.15 su Radio 24. Come sempre di venerdì sentiamo una anticipazione, Livia Zancaner. Nel 2020 l'Europa rischia di perdere, causa Covid, 60 milioni di posti di lavoro, a cui bisogna aggiungere irregolari, precari e lavoratori in nero. La stima è della Confederazione Europea dei Sindacati, il segretario generale Luca Visentini. Sicuramente abbiamo tra i 40 e i 45 milioni di persone che hanno sostegno al reddito e tra i 10 e i 15 milioni di persone che sono finite in disoccupazione. Questo porta, diciamo, il totale di queste persone a quasi tre volte il disoccupati che si sono creati durante la crisi finanziaria. Unemployment is set to increase. La disoccupazione salirà e la pandemia avrà un grave impatto sul mercato del lavoro, ha spiegato il commissario all'economia Paolo Gentiloni nelle previsioni economiche di primavera. Quest'anno, secondo la Commissione, il tasso di disoccupazione salirà al 9%, dal 6,7% in Italia si attesterà all'11,8%. Positive, secondo gli addetti ai lavori, tutte le misure messe in campo dall'Unione Europea, dal Recovery Fund al Fondo Sure per la disoccupazione, ma i paesi tardano a rispondere. Il rischio è che i lavoratori con forme di sostegno al reddito si trasformino in disoccupati e le imprese chiudano. Tra i settori più colpiti, turismo, ristorazione e retail, ma anche l'auto. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dunque, ve l'abbiamo già raccontato nella parte dei titoli di effetto giorno della decisione comunicata oggi da parte dei parenti delle vittime del Ponte Morandi, il Comitato per il Ricordo delle Vittime, di non voler partecipare alla cerimonia di inaugurazione del nuovo viadotto sul Polcevera. Hanno detto: quel momento, in quel luogo, per noi non può essere parte di noi, scrivono i familiari al sindaco Bucci. Adesso vi facciamo sentire per esteso la voce di Egle Possetti, presidente del comitato parenti vittime del Ponte Morandi, su questo punto. I familiari che invece si dicono disponibili ad un primo momento di cerimonia per un memoriale in ricordo delle vittime, sempre nei pressi del ponte. Sentiamola al microfono di Andrea Ferro. Noi avevamo avuto una posizione molto dura rispetto all'inaugurazione, nel momento in cui era da noi vista come una festa. Abbiamo sempre detto che non è una festa, in un paese civile questo non è una festa, perché questo nuovo ponte è nato da una tragedia e per noi non lo era. Quindi erano in programmi concerti Rai, eventi festosi, ci sono tante occasioni per fare dei concerti, questa per noi non era quella adeguata. Poi c'è stato l'intervento del Presidente della Repubblica che ha chiesto sobrietà. Ieri sera vi siete riuniti e alla fine avete deciso che non parteciperete alla cerimonia di inaugurazione. Perché essere lì quel giorno per noi su quel ponte aveva un significato troppo forte. Come immaginerà, noi non lo sentiamo come nostro questo ponte, e questo ponte per noi resterà indissolubilmente legato dalla tragedia che ci ha colpiti. 13:26, una notizia di poco fa, una Ultimo ora, che ci riporta un po' ai tempi in cui tra le regioni e il governo centrale di Roma c'erano continui strappi e, così diceva, a volte incomprensioni o anche semplicemente decisioni diverse su cosa era consentito e non consentito fare ai tempi del lockdown. In questo caso è stata una dichiarazione del presidente del Veneto Luca Zaia a proposito degli sport di contatto appena bocciati due giorni fa, se non ricordo la memoria non mi inganna, dovevano ricominciare ieri l'altro, il governo ha rinviato invece via libera agli sport di contatto e alle processioni, nessun limite di capienza sui mezzi di trasporto, riapertura di ippodromi e saune sono i contenuti di una nuova ordinanza che il presidente del Veneto Luca Zaia firmerà nelle prossime ore. Dunque, diciamo, andando anche in questo caso in anticipo o in controtendenza, come preferite, rispetto alle decisioni di Roma. 13:27, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Torneremo a parlare della questione vitalizi, si tornerà a pagare il vitalizio agli ex senatori dopo la bocciatura della commissione contenziosa del Senato, oppure, e lo chiederemo all'onorevole Movimento 5 Stelle, la norma che evidentemente non è stata scritta nella modalità dovuta perché non è il primo ricorso. Che non viene superato, verrà in qualche modo ripresa, e credo che questo sia il sentimento di molti italiani. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Rientro a scuola, oggi si decide su mascherine e data di partenza. Tensione sul blocco del taglio dei vitalizi Casellati, la presidenza del Senato non c'entra, il Movimento 5 Stelle accusa Forza Italia per la Meloni, è colpa del PD. Ancora attenzione a Mondragone, proteste contro la zona rossa e scontri tra italiani e bulgari, incendiato un furgoncino. Ponte di Genova, i parenti delle vittime dicono non parteciperemo all'inaugurazione. Calcio, torna alla Serie A stasera con Juventus-Lecce. Eccoci qua, 13:34 minuti, cari ascoltatori, i vostri messaggi al 349-238-6666. Chiede Claudio dalla Spezia: ma Zangrillo non aveva detto che il Covid era sparito? E il riferimento naturalmente ai nuovi focolai di Bologna, in cui abbiamo parlato con il rappresentante della AUSL di Bologna. Insomma, giudicate voi se è sparito oppure no. Clinicamente è, diciamo, sparito, e questa è sempre stata l'affermazione di Zangrillo, ma anche di chi ha firmato, i virologi, la famosa lettera in cui non si dice che il virus non c'è più, ma che si è indebolito. E in effetti anche tra questi contagi di Bologna molti sono gli asintomatici, quasi tutti. Poi ancora, se riesco ad utilizzare la modalità di lettura dei messaggi, che come abbiamo già detto in questione è un po' complicata per problemi nostri, sono contrario ai vitalizi, siamo un paese di diritto e questo ha vinto contro il populismo dei 5 Stelle. Va bene, allora di questo tanto ne parleremo tra poco con un onorevole del Movimento 5 Stelle, valuteremo perché c'è stata questa bocciatura della commissione del Senato per quanto riguarda il taglio dei vitalizi. Adesso Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. Oggi l'Istat ha diffuso una fotografia fedele di ciò che ha prodotto la pandemia. Non è la solita istantanea sulla glaciazione dell'economia che ormai ben conosciamo, è il ritratto di un'Italia spaventata e sotto shock. Il primo trimestre, quindi con il solo mese di marzo di quarantena, segna un aumento del deficit al 10,8% rispetto al dato dell'anno prima che era fermo al 7,1%. Meno entrate fiscali e poi spese per far fronte all'emergenza, dice l'Istat, come ad esempio il costo delle casse integrazioni in deroga. I numeri di oggi fanno il ritratto di un paese che vede ridursi il reddito disponibile dell'1,6% e vede crollare le spese per consumi del 6,4%. Insomma, un'Italia spaventata e rintanata in casa, senza fiducia nel futuro. I soldi disponibili finiscono nei conti correnti o sotto il materasso e infatti la propensione al risparmio cresce del 4,6%. Ma c'è un ma, come sempre. La pressione fiscale in questa Italia timorosa e sfiduciata aumenta. Implacabile. Il peso di tasse e contributi cresce dello 0,5% al 37,1%. Se ne avessimo mai avuto ancora il bisogno, è il segnale che a questo paese, in cerca di un futuro, serve una riforma fiscale degna di questo nome, altro che un semplice taglio dell'IVA. E adesso, come anticipato, è con noi l'onorevole il senatore del Movimento 5 Stelle Primo Di Nicola. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Benvenuto. Autore, tra l'altro, del libro Orgoglio e Vitalizio. Allora, sì. Torniamo su questa questione annosa, perché riepilogo solo velocemente la notizia. La notizia è questa: ieri la commissione contenziosa del Senato, devo dire che non so quanti fossero a conoscenza, diciamo, tra i non parlamentari, che esiste una commissione contenziosa che si occupa proprio di questi contenziosi, ha di fatto accolto ricorsi sul taglio dei vitalizi presentati dagli ex parlamentari guidati da Maurizio Paniz. Vuol dire in pratica che è stata annullata la delibera dell'ufficio di presidenza di Palazzo Madama, poi mi corregga se sbaglio, che ricalcolava col sistema contributivo, così come avviene per tutti i comuni mortali da molto tempo a questa parte, tanto tempo a questa parte per i comuni mortali, poco tempo a questa parte per i senatori, dal 2012, l'assegno appunto per gli ex senatori. Ora, intanto credo che ci sia anche un secondo grado di giudizio, quindi anche c'è, cioè, tutta una procedura. Però, onorevole Di Nicola, su quali basi è stato accolto questo ricorso dei senatori che da tempo criticano questo taglio dei vitalizi? Perché, insomma, sappiamo che la questione dei diritti acquisiti è quello il fulcro della vicenda. Certo. Poi, prego. Appunto, il tema centrale è quello di diritti acquisiti o di un presunto diritto acquisito. Però attenzione, qui dovremmo cominciare a parlare della natura di questo diritto. Qui stiamo parlando di un istituto che non vale per la generalità dei cittadini, un istituto varato dal Parlamento con una legge. Stiamo parlando di un trattamento cosiddetto previdenziale, ma che una volta, in altri tempi, i parlamentari difendevano quando si diceva è un trattamento pensionistico e deve essere allineato al trattamento dei comuni cittadini. A quel tempo, parlo degli anni 90, i parlamentari dicevano no, questo non è un trattamento previdenziale, trattasi di vitalizio, di una cosa del tutto particolare. In effetti è una cosa particolare, nel senso che non vale per tutti i cittadini, ma sì, solamente per i parlamentari. Attenzione, okay. Cioè, qui i parlamentari, però, Di Nicola, questo sono varati, sì, un trattamento esclusivamente per loro stessi. Certo, ma questo però è storia, questo lo sappiamo, lo sanno quasi tutti. La domanda è: come mai lei si aspettava, per esempio, che ci potesse essere un giudizio come questo da parte di questa commissione contenziosa? Perché è stato accolto la tesi solo per ragioni politiche? Ma guardi, basta guardare la composizione di questo organo per capire che le cose sarebbero andate a finire così. Tenga presente che c'è stato già un ricambio, perché qualche mese fa, ma in realtà almeno da un paio d'anni, io ero tra quelli che sollevava la questione del conflitto di interesse, perché dentro la commissione contenziosa, non fosse altro che per una questione di stile, ci sono persone che hanno votato in passato e hanno votato in questo caso per il ripristino dei vitalizi, che sono appunto in conflitto di interesse perché ripristinano un trattamento scandalosamente di vantaggio, privilegiato, di cui andranno a godere loro per primi. E questa è una questione, ripeto, non fosse che per una questione di stile e di diritti, doveva essere, come dire, rimossa. E non a caso io avevo chiesto l'azzeramento qualche mese fa, l'azzeramento di questo organo di garanzia, quantomeno per metterci dentro parlamentari che, e magari eletti dopo il 2012, che in maniera più serena e imparziale potessero andare a giudicare intorno a questa delibera, intorno ai ricorsi. Senta, Di Nicola, però a questo punto, insomma, che questa norma rischi, a questo punto questa misura rischi, e che debba esserci messa una toppa, perché io, al di là, poi ognuno ha le sue sensibilità, figuriamoci sul fatto, diciamo, dei diritti acquisiti, che è un tema ampio. In questo caso sono d'accordo con lei personalmente, si parla più che altro di privilegi acquisiti più che di diritti, ma insomma, però sul fatto fatto che il sistema, diciamo, pagamento in base ai contributi e non alla retribuzione sia veramente una cosa che grida vendetta, e che quindi, diciamo, nella sostanza il sentimento degli italiani credo che sia chiaro. Ma a questo punto, però, perché pensavamo di essercelo lasciato alle spalle questo problema, onorevole Di Nicola, invece siamo ancora qua. Pensate di metterci una toppa? Intendete tentare di metterci una toppa, di riscrivere questa norma, che evidentemente non è stata scritta in modo da attenere a questo genere di ricorsi? Non è stata scritta bene. Ci saranno sicuramente ricorsi, quindi si andrà in secondo grado, e quindi ci sarà la possibilità per l'altro organo di intervenire e, se vuole, ripristinare un minimo di giustizia sociale. Certo, resta, come dire, l'amarezza di una battaglia che si sta rivelando praticamente inutile, e sarà inutile fino a quando, con spirito corporativo, con spirito di cassa, ci saranno parlamentari in questi organi di garanzia che, come dire, giudicheranno, come dire, sulla scorta di un privilegio che vogliono mantenere e non alla luce di una giustizia anche qui pensionistica da allineare, come dire, che valga per tutti, e quindi questo trattamento ricalcolato come era stato fatto con il sistema contributivo possa restare e valga, perché ha il valore di un trattamento in questo caso simile a quello dei comuni pensionati. Va bene, grazie all'onorevole Primo Di Nicola, grazie per essere stato con noi. Però i parlamentari ci sono e hanno diritto di esprimersi. Bisogna, io credo, per chi, come io personalmente, difende la norma sul taglio dei vitalizi, scriverla in maniera che sia inattaccabile, però, perché se no non è la prima volta che si casca in questo genere di ricorsi. Eccoci qua, Carlo Genta. Ciao Carlo. Ciao Alessio, buongiorno. Allora, a tutti. Si rigioca stasera? Stasera si rigioca. Ieri sera abbiamo, insomma, preso un bel respiro, sì, e adesso ci rituffiamo in una serie di serate con partita, a cominciare da questa sera, sì, con la Juventus che torna in campo, riceve il Lecce, chiede conferme. Juventus che ha allungato in settimana, guadagnando due punti sulle più immediate inseguitrici, cioè la Lazio e l'Inter. Tanto ieri sera, però, per tenerci in allenamento, abbiamo visto il Liverpool, ecco, tornare a vincere lo scudetto, e da qui partiremo poi in tutti i convocati, tornare a vincere lo scudetto in contumacia, cioè dalla poltrona, perché il City ha perso, dunque il Liverpool matematicamente campione d'Inghilterra 30 anni da dopo. Quanto? 30 anni? 30 anni dopo, dal 90. Sì, un sacco di tempo, la roba mi guarda sbigottita. 30 anni dopo, ebbene, Liverpool che torna, festeggiamenti borderline, anche molto chiacchierati a Liverpool, perché assembramento sì, c'è stato, altro che, per questa festa che era attesa, dato che Liverpool ha stradominato il campionato inglese, l'ha vinto con larghissimo anticipo. Era attesa, ma è stata comunque festeggiata. Festeggiata, è stata festeggiata senza partita, perché appunto sulla base del risultato arrivato da un'altra parte, dalla sconfitta del City. Però festa del Liverpool, di questo parleremo poi con Stefano Colantuono delle tematiche del campionato italiano, e poi di problemi che riguardano i nostri sport olimpici, perché c'è grande attesa per un provvedimento legislativo che potrebbe salvare la vita sportiva, garantire la permanenza di molti club di basket, di pallavolo, di tutti gli sport olimpici che sono in difficoltà. Grazie Carlo, appuntamento a dopo, naturalmente dopo le 14 noi torniamo tra un attimo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.